Ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, mi sentite forte e chiaro, vero regia? Io chiederei un leggero, così, un leggero abbassamento. No, di voce. Lei forse, io mi sento poco in cuffia, quindi le chiederei un leggermente rialzo, ecco, sì, bene. Bene, allora, ben arrivati in questo nuovo appuntamento, in questa nuova domenica, oggi molto calda per quanto riguarda appunto Easy Pop sulle frequenze dei 103 e 100 in modulazione di frequenza. Io sono Franco Paoletti, ovviamente, che si alterna qui ogni domenica. Di là del vetro invece c'è l'onnipresente, indispensabile oserei dire, Bolognese Volante. Buon pomeriggio. Con chi posso prenderla se non con lei, ovviamente, se le cose non vanno. Hanno tanto, insomma, ecco. Va bene. No, c'è sempre la redazione di là, però insomma risponde ai telefoni. Neanche spolvera, perché ho visto che forse il caldo. Va bene. Allora, cari amici, ben ritrovati su 103 e 100 modulazione di frequenza. Questo l'ho detto. 333 180 94 94 il nostro numero di WhatsApp, SMS, Telegram. Insomma, la redazione vi risponderà. Oggi è la puntata numero 24 di domenica 18 giugno 2023 e non facciamo un ricordo della Carrà, niente, che oggi sarebbero stati gli 80 anni, niente. Ci voglia ricordare tutte quante. Sì, no, è vero anche quello, perché ci poi vorrebbe ci sono diversi. Puntata solo di ricordi. In effetti in questi giorni ci sono diversi compleanni storici eccetera, però insomma la Carrà avrebbe avuto 80 anni, oggi se ne è parlato, va bene, magari in finale. Allora, ben arrivati sui 103 e 100 modulazione di frequenza, siamo in diretta e direi di dare uno sguardo alle nuove uscite discografiche nel nostro salotto domenicale per così insomma vedere che cosa si muove nel mondo indie. Diamo un'occhiata alla prima uscita discografica che andiamo così a segnalarvi, riguarda Cortese, e non è Pier Cortese che un'altra persona, un altro cantante. Cortese solo ci presenta L'estate del 2003 e poi vi parlo di lui, quindi non andate via ma ascoltate con attenzione. Piatto numero 2, Cortese. Ho ricordi scritti su un diario, smemoranda blu di baci sulla sabbia, chitarre scordate e voci stonate a cantare Vasco. Io no, non ti dimenticherò. Messaggi scritti sulla pelle, rivoluzione adolescenziale, notti brave appiccicati alle cose di sempre, di quando scrivevamo ancora le canzoni a penne sui fogli di carta, di quando ci amavamo a San Lorenzo sulla spiaggia, dal tramonto all'alba. E poi mi dicevi, ora è tardi, torno a casa, che il mare stanca, il sole invecchia, l'amore ci sconvolge, ci distrugge, poi ci salva e non ci aspetta, mi se ne frega, e sbatte sulla costa, prende il largo e poi ritorna. Come fai tu con me, che se il tuo amore me lo sbatti sulla faccia? Ho ricordi scritti nella testa, fermi in una stanza, a casa dei miei di un luglio prima degli esami, a ripetere i filosofi kantiani. Cosa posso sapere, come devo agire, cosa posso sperare? Tu che mi dicevi, ora è tardi, torno a casa, che il mare stanca, il sole invecchia, l'amore ci sconvolge, ci distrugge, poi ci salva e non ci aspetta, lui se ne frega, e sbatte sulla costa, prende il largo e poi ritorna. Come fai tu con me, che certo amore me lo sbatti sulla faccia, poi fuggi via e ritorni quando vuoi, come mare con la sabbia. Taran, taran, taran, il sole inverno. L'amore ci confonde, ci distrugge, poi ci sana. L'estate del 2003, nuovo singolo del cantautore pugliese Cortese, prodotto da DJ Molla, e questo è un personaggio che ben conosciamo, che produce veramente cose interessanti, soprattutto di sound così synth pop, elettronica. Comunque, chi è Michele Cortese, da non confondere con Pier Cortese? È un cantautore salentino, classe 1985, vincitore già nel 2008 nella prima edizione di X Factor insieme alla band degli Aram Quartet. Sapete, questa band poi si è sciolta per poi proseguire con carriere soliste, e lui insomma è uno dei tanti che appunto ha preso il largo e anzi ha voluto anche provare la prima edizione cilena del talent show The Voice, dove è stato apprezzato. Pensate che è andato anche al famoso famoso Sanremo, così vogliamo dire, del Mar del Sol, mi sembra si chiami così questo festival internazionale, Vigna del Mar in Cile, questa specie di Sanremo per il conosciuto quanto il festival di Sanremo. Io che non so niente lo conoscevo, sapevo che esisteva almeno. Ecco, sì, cioè, questo è proprio un punto d'arrivo per i cantanti. Quindi che vanno là e diventano molto popolari. Famoso se lo conosco io. Sì, beh, certamente. Poi ha avuto delle collaborazioni con Mogol e poi insomma diversi singoli al suo attivo, e quindi ritorna alla musica l'ex Aram Quartet, ovvero sia Cortese. Bene, a questo punto, tanto per dire che le band si sciolgono, ma che cosa succede? Che si va avanti, ovviamente. E a questo punto una voce femminile, andiamo con Margherita che ci presenta Sahara. Anch'io ero piccola, sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera. Chi se ne frega se Dio mi guarda mentre sbaglio, vorrei sfogliare i miei ricordi e poi filmarli in bianco e nero con la Kodak. Altalena nel collo, zucchero e fragole. Ho costruito casa sulla sabbia del Sahara, con la pelle d'oca che si incendia sotto il cielo. Tutte queste cose mi lasciano qualcosa, ma tu mi porti in alto come fa Maestro Yoda. Non è domenica, ma giri col pigiama addosso. Sei il sorriso di cui ho bisogno quando anch'io crollo. Come ci riesci? Riempivi i miei spazi vuoti. Sei quella luce che ho sul comodino, occhi gonfi con un calice di vino. Le tue dita al collo, mi sento fragile. Ho costruito casa sulla sabbia del Sahara, con la pelle d'oca che si incendia sotto il cielo. Tutte queste cose mi lasciano qualcosa, ma tu mi porti in alto come fa Maestro Yoda. Da quando non sei qua mi perdo per l'Africa, metto un po' di zucchero in più nel caffè. Casa sulla sabbia. Margherita con la sua Sara, un radioascoltatore, Stefano di Vicenza, che approfittiamo per salutare, ci certo. Dice che a Via del Mar c'erano i Jalis. Sì, ma non solo, beh, ma certo, non solo. Sì, è vero, ma non solo i Jalis, c'era, non dico anche Laura Pausini in passato, ma certo che me li ricordo. Come si fa ad... di parole. Sì. No, c'è quel film italiano dove dice appunto che praticamente i Jalis sono il succo della musica italiana, eccetera, eccetera, e c'è questa scena splendida, a mio avviso, con Fiumi di parole, che dire, che insomma solo questo merita il film, vabbè. A questo punto io per quanto riguarda Margherita, io non dovrei essere io a presentarla, però, perché dopo dice che sono di parte, dice tante cose. Lo faccio io? Lo posso fare? Scusi, regia? La faccio? Roba. Lo faccio, lo dico. Margherita, ben arrivata, è nata a Gorizia al 24 anni e si è diplomata al liceo linguistico Scipio Slata, però è proprio di fronte alla emittente dove io l'ho lavorato tanti anni. Bene, allora a febbraio si è laureata all'Accademia di Belle Arti, e poi che c'è da dire? Che lei è una designer in realtà, però è anche una maestra di sci e anche allena. Per quanto riguarda lei, ha aperto diversi concerti di diversi personaggi, tra cui ovviamente Elisa, ma non solo, quello di Roberto Vecchioni e tante altre cose. È finalista al premio Lunezia, e che dire, che insomma sono tante le sue esperienze musicali. Che cosa, questo è il suo terzo singolo, come dico io sempre, se sono rose fioriranno. Dovremmo chiedere alla redazione di interessarsi un po' di più, insomma la vorrei appunto intervistare, per capire un po' la prossima volta che vado a Gorizia. Bene. Insomma, bene, complimenti anche a Margherita, è un'ottima canzone. Tra l'altro non ho visto chi sono appunto gli autori, però insomma vedremo di avvicinarla il più in fretta possibile, giusto perché insomma battere il ferro finché è caldo, visto che è uscito questo singolo. Complimenti, noi a questo punto andiamo avanti. Quindi questa è una sorpresa della redazione, perché me l'ha fatta, perché non ne sapevo niente di questa, me la sono trovata in playlist, ho detto vabbè, la presenteremo. Ottimo, al primo ascolto per me sì. Mi sento un po' alla Mara Maionchi in questo possiamo momento. Possiamo andare avanti o No, andiamo avanti. E quindi a questo punto abbiamo Sono Guglielmo, il personaggio che andiamo a scandagliare in questo momento, con il singolo Faccio finta di niente. E faccio finta di niente, dico che sto pure meglio. Io so la verità, la conosce pure il tempo che passa, e quando passa mi porta un fazzoletto che non mi passerai, non te l'avevo mai detto. Nascondere i tuoi post non è servito molto, ma pari nella home ogni giorno sei un ricordo. Ma hai fatto così schifo che pensavo fosse facile, ma tra cervello e cuore c'è una guerra interminabile. Chissà dove sei, mi chiedo che fai. Non dormo e fisso il muro che non mi risponde mai. Siamo stati un fiore, infatti è durata poco. Potevamo essere arte, preferito essere fuoco. Faccio finta di niente, dico che sto pure meglio. Io so la verità, la conosce pure il tempo che passa, quando passa mi porta un fazzoletto che non mi passerai, non te l'avevo mai detto. Schiaccio ogni pozza che trovo sulla strada, mentre ti penso divoro tutta l'aria. Mi sono imbucato in ogni paradiso artificiale, ma quando riesco torni protagonista delle mie pari. E faccio finta di niente, dico che sto pure meglio. Io so la verità, la conosce pure il tempo che passa, e quando passi mi porto un fazzoletto che non mi passerai, non te l'avevo mai detto. Sono Guglielmo, il pezzo è Finta di niente, in realtà è Faccio finta di niente, appunto, però il titolo originale è Finta di niente, lo ribadisco. Sono Guglielmo, nome d'arte di Guglielmo Fineschi, un cantautore senese classe 96 che prende ispirazione dai suoni rock graffianti e dal cantautorato italiano moderno, insomma ve ne sarete accorti. Si esibisce all'interno di vari gruppi rock e poi da solista, e poi in esibizione trasmissione live parte dal 2015 fino a pubblicare brani interessanti a partire dal 2020, firmando infatti con Stefano Borzi, che ricordiamo in alcuni festival di Sanremo di tanti anni fa, e si è dato poi appunto alla scrittura per altri, non ultimo mi sembra Mietta e tanti altri. Bene, con appunto questo nuovo singolo decide di tornare alla musica, e devo dire che insomma il brano c'è, è molto graffiante, queste ballad davvero così insomma graffianti ci piacciono molto, giusto per staccare anche dal solito refrain del synth pop, no? E quindi complimenti. Come parla bene Paoletti. Sono Guglielmo, a questo punto direi di passare la voce a Tal Gabriele, ci presenta Auguri, tra parentesi Happy Birthday. Fiamma che danza, con un soffio si spegne l'esistenza, celebrata da gente di importanza, in questo giorno di festa, un vrai miracle. Ferme, heureux, la lumière qui te suit, t'éblouit un peu, aveugle tes questions. Toutes les vite et les voci risonano in eco nella tua realtà. Auguri, auguri, auguri, happy birthday. Tanti auguri a te che sei, auguri a te che sei, auguri a te, happy birthday. Tanti auguri a te che sei, auguri a te che sei, auguri a te, happy birthday. Tanti auguri a te che sei, auguri a te che sei, auguri a te. Come banale, un miraggio eccezionale, siamo frammenti, polvere di soli spenti, un vrai miracle. Couramment extraordinaire, un vrai miracle. Ferme, heureux, la lumière qui te suit a ouvert tes yeux, éclaire tes questions. Toutes les vites et les voci risonano in eco nella tua realtà. Auguri, auguri, auguri, happy birthday. Tanti auguri a te che sei, auguri a te che sei, auguri a te, happy birthday. Tanti auguri a te che sei. Molto danzereccio questo brano che ci viene proposto da Cotal Gabriele, auguri, happy birthday. Sì, possiamo dire di lui che molto non estivo, è bellissimo, molto è molto estivo questo pezzo, lui non è bellissimo, però ha un fascino, un carisma impressionante. No, ma vabbè, insomma io poi giudico dal video che gli dà grande importanza, però lui non è bellissimo, ma ha un non so che ha conquistato i francesi, perché penso un po' con i suoi precedenti singoli, lui è arrivato praticamente, lui è siciliano, però è stato adottato da Parigi, comunque insomma dai francesi, e piacciono tanto le cose strane italiane. Bene, pensate che è finito, pensate che è finito nella top 40 del Club France per quanto riguarda appunto i dischi venduti, scaricati eccetera, quindi è già un nome che è conosciuto, tra l'altro sotto contratto con la Universal France. Devo dire che adesso rientra ovviamente in italiana in Italia con questo singolo che è davvero molto estivo. Tra le cose vado a segnalarvi che esiste poi la versione francese di Auguri Happy Birthday, appunto in francese, quindi lavora su due fronti, in versione appunto estiva, appunto disco in Italia e in Francia. Così ci piacciono i nostri artisti, bravo, che vanno in giro per il mondo e bravi, meritano giustizia e quant'altro. Complimenti, ritorniamo proprio alla grande. A questo punto noi proseguiamo ancora con la musica proprio made, più made in Italy di così non si può, perché il nome è conosciuto, lui altrettanto per essere il fratello di, però insomma ci ha già dimostrato più volte che è sanguigno quanto il fratello, è conosciuto insomma quanto il fratello. Di chi sto parlando? Piatto numero 2, Marco Ligabue, sempre tutto bene. Mo senti che roba. Non ho dormito neanche un'ora stanotte, ho lo stomaco che chiede pietà, è andata questa sorta con un colpo alle banche. Con che coraggio chiedi come va? Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Oggi è sabato, speriamo che piove. Ieri ho giocato a far la celebrità. Milano ascolta, io mi sento game over. Sono un coglione ma ogni tanto ci sta. Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Ma per fortuna, fortuna, fortuna sei arrivata tu. Nemmeno la luna, la luna, la luna ci credeva più. E ora non mi importa dove si va, restiamo a fare i spenti in macchina. Addosso la tua pelle come mi sta, ma come mi sta, che cosa mi fa? Vabbè, ci casco tutte le volte, promesse come chiacchiere da bar. Sconto il debito in fila alle poste, col mal di testa di un'estate fa. Sempre tutto bene, sempre tutto bene. Ma per fortuna, fortuna, fortuna sei arrivata tu. Beh, eccolo qua, sempre tutto bene, Luciano Ligabue, ex Razza, 10 anni dal praticamente... Marco Ligabue. Marco Ligabue, sì, il fratello, no, di Luciano Ligabue, per quanto riguarda appunto adesso lui canta solo, in realtà era un ex Razza, se non sbaglio, si chiamava così la band precedente, sono un po' in confusione, non ricordo bene, comunque i nostri amici ascoltatori sicuramente se lo ricordano, anzi se ci danno una mano è ben gradita. Allora, sempre tutto bene, il suo nuovo singolo che apre le porte all'estate 2023 con diversi appuntamenti live, tant'è vero che vi ricordo che lui sarà in piazza Lucio Dalla il 22/6 qui a Bologna tra qualche giorno. Bologna, piazza della bellissima nuova piazza Lucio Dalla. Esattamente, sarà un appuntamento se non sbaglio gratuito, quindi buttarci un occhio non sarebbe male. E poi insomma, dicevamo 10 anni dal precedente, 10 anni da solista e da qualche anno dal precedente, dalla scrittura del precedente album, e nonché anche dal libro che ricordo si intitola Salutami tuo fratello. Oggi è già alla terza ristampa di questo libro che sta andando ancora, sta vendendo ancora molto molto bene, quindi che dire, che è una forza, tant'è vero che nella sua band, perché viene accompagnato da una band, ci sarà anche Lenny Ligabue che è il nipote di Marco. Che dire? Che dire? Che tutta la famiglia ormai. Piatto numero uno, penultimo. Bene, bene, bene. Prima parte che sta volando. Chi abbiamo adesso, Paoletti? Lei mi sovradetermina, come si suol dire. Noi l'ho completato il mio. Sennò qua vabbè, che corriamo come matti. Comunque, out of line ci presenta Mai Sola. Sola tra la gente che nulla sa di lei. Forte indifferente per le strade di LA. Gli occhi puntati addosso come fari, lo sguardo è il riflesso dei suoi pensieri. Vento, vieni a vedere lei come si muove tra le onde del tempo. E corre veloce al ritmo del suo movimento. Ride, gli scivola addosso come fosse lava sopra la sua pelle. Nessun sentimento la lascia mai da sola. Suoi. mille pensieri che ha, troppo il rumore di questa città, ed ogni momento è ancora ieri. Vento, vieni a vedere lei come si muove tra le onde del tempo, corre veloce al ritmo del suo movimento. Dance molto estivo anche questo di Out of Line, Mai Sola. Saranno le nuove sorelline Paola e Chiara, chi lo sa, un gruppo composto da Sonia Lo Giudice, 18 anni, e Zaira Lo Giudice, che ne ha 17, sono entrambe studentesse del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. Si sono esibite in diverse manifestazioni musicali e contest, hanno studiato anche attraverso vari stage, comunque insomma scuole musicali, visto che abbondano, e si sono esibite, e anzi loro i due loro primi singoli sono stati ben recepiti in tutti quei social tanto cari appunto a noi, e tra l'altro vado a segnalarvi che il loro secondo singolo Bali è scritto da loro stesse, hanno avuto insomma diverse recensioni, e tutta la stampa adesso insomma si è così mossa a controllare queste due ragazze su cui puntano molto, e quindi se sono rose, come dico io sempre, fioriranno. Basta con ste rose, la prego. Insomma, è il mio motto, insomma. Capito, ma... Complimenti per il loro nuovo singolo che è appena uscito e ci è piaciuto molto, insomma, in linea coerente con il loro percorso. Vedremo se arriveranno ad avere una carriera fantastica quanto Paola e Chiara. E a questo punto invece siamo alla settima proposta, ultimo brano per questa prima mezz'ora. Ci presenta Soulbox, Virgin Mistress. Bellissimo alternative rock, molto bello, ritorniamo un po' da Virgin Mistress, devo dire mi ricorda un po' gli alternative rock.

parlare. Anni, Paoletti. Sì, è vero. E allora vediamo di dare spazio e voce a una ragazza giovanissima che si fa chiamare Libra. Libra in inglese sarebbe bilancia. Bilancia, ecco, perché lei è nata sotto il segno della bilancia, se non sbaglio, quindi da qui il nome d'arte. Giovanna Camastra si chiama così, ha scelto Libra. Il nome Libra, appunto. L'abbiamo vista, o se guardate spesso la TV e i talent, l'avete vista sicuramente su Rai 1 a Sanremo Young, cantando quando era quindicenne in questo appunto programma per Sanremo Young, a fianco di Gino Paoli, Rocco Hunt, Gigi D'Alessio e Marco Masini, quindi ha avuto un bel battesimo, a mio avviso. Ci ascoltiamo allora questa Libra, certo, con Isola, il suo pezzo per l'estate. Sul piatto numero 2. Perfetto, ascoltiamo. In fondo in questa storia non serve mettere play. Hai scelto un disco e ti nascosto, poi lo brucerei. Anche la polvere si alza e vola intorno a te. La storia acida e monotona dei tuoi cliché. Non resta più neanche un briciolo di dignità in questo spazio in cui anneghi di malignità. Dimmi se c'è ancora tutto il vuoto freddo nelle ossa. Non puoi coprire il dolce gusto di un moen. Ci resta un'ultima mezz'ora prima che arrivi forte un nodo in gola. Che storia anonima, non ho più identità. Non siamo anime che vibrano allo stesso hertz. Forse domani sarà già finito questo weekend. La nostra isola, che poi vista da qua, fa perdere senso e l'emotività. Siamo parentesi scattate dallo stesso flash. Mi metto in gioco fino all'ultimo come un nuovo trend. Un'altra isola, che poi vista da qua, sarà un istante senza gravità. La moca addosso ad un lenzuolo di qualche anno fa brucia forte come la pioggia sul Luna Park. Le tue braccia aperte come fossi a Nottingham. Un chiodo fisso che non andrà via più via da qua. Andata via senza ritorno verso l'aldilà. Cerco una strada che mi butti da questa città. Dimmi se c'è ancora tutto il vuoto freddo nelle ossa. Nelle ossa. Non siamo anime che vibrano allo stesso hertz. Forse domani sarà già finito questo weekend. La nostra isola, che poi vista da qua, fa perdere senso e l'emotività. Siamo parentesi scattate dallo stesso flash. Mi metto in gioco fino all'ultimo come un nuovo trend. Un'altra isola, che poi vista da qua, sarà un istante senza gravità. Un'aria fredda come su Marte, noi che guardiamo da... Molto interessante, una voce calibrata, si vede che è ben preparata. Lei è una bella ragazza, andate a vedere anche il video per Libra Isola, il pezzo che abbiamo ascoltato ora. E a questo punto invece voltiamo pagina e diamo spazio invece a Darling, che è una band di musica psichedelica gospel pop composta da due membri, uno italiano e uno americano. Cosa ne viene fuori? Ascoltiamo immediatamente con Made for Tonight. Darling. And the fire's getting bright in your eyes. And I've never about happiness. Can we get it, fam? Don't hold it by the hair, gotta hold it by the hand. Until we understand that there's darkness in the light and love in the fight, we were made for tonight. I'll be waiting all my life. Darling, si chiamano così questo duo che da praticamente un po' americano, un po' italiano, fanno il loro esordio con questo singolo. Tra l'altro c'è un featuring Chris. Praticamente il singolo d'esordio di questo duo formato dal piemontese Alberto Dante e dall'americano Gareth Rea, impreziosito ovviamente con questa collaborazione col cantautore torinese Chris, e quindi che ha dato vita insomma proprio a questo singolo che è un po' country, è vero, ricorda anche sì, un po' questo sapore, un po' di musica americana, un sì, po' datata, no, il country, che va comunque sempre, insomma, è di sicuro successo e di sicura presa. Bene, salutiamo anche i Darling e andiamo ad ascoltare invece un, non so se un rapper, dire, definire rapper il prossimo è corretto o meno. Comunque, Ruben Cocco ci presenta Gloria, ascoltiamolo. Gloria no, non è perfetta, è rimasta incinta in fretta, con un figlio già grande all'università. Gloria no, non è contenta, è già troppo che ci pensa, è da tanto che non va più a una festa. Basta. Gloria, direi che non è proprio un rap, è una canzone melodica anche abbastanza danzereccia, insomma, quasi sì, dance. Sì, molto pop, devo dire la verità. Sicuramente sì, si chiama Easy Pop. Esattamente, il suo look è molto rapper in realtà, così insomma sembra questo cattivo. Ma l'apparenza inganna. L'apparenza inganna come sempre. Ruben canta, insomma, scrive musica autoprodotta dal 2015, ha pubblicato nel 2018 i suoi primi singoli che hanno avuto un certo riscontro dalla rete e poi piano piano con il lavoro certosino nel 2022 entra in studio con tal Luigi Tarquini, detto Etrusco, e Federico Fontana Fonez, che producono il suo primo disco e questo è il terzo estratto dal suo album. Complimenti, e devo dire che rimane detto leggerino, è questo carissimo brano, era detto leggero, ma insomma è pop, devo dire che ha una grandissima presa sorpresa, devo dire, che l'avevano tenuto nel cassetto, ma hanno fatto un grave errore, hanno fatto bene così a tirarlo fuori, insomma, perfetto. Detto ciò, abbiamo la prossima, l'ultima fila, ci presenta Ritmi. Vi attraverso per sparire, respiri piano poco prima di dormire, sai la primavera ed io sarò il tuo aprile, sarai l'ago nella vena ed io sarò il senza precipitare, abbiamo sempre troppe cose e mai niente da fare. Abbiamo ritmi diversi, io salgo, tu scendi. Abbiamo ritmi diversi, io salgo, tu scendi. Io mi spengo nel buio, tu invece ti incendi. Abbiamo ritmi diversi, io salgo, tu. In tasca i genitori, i nostri errori in una vasca di Parigi, per essere migliori, prima si amava per dovere, ora è un dovere amarsi male, ci siamo persi in un acquario, mentre cercavamo il mare. Abbiamo troppo da fare, niente da fare. Abbiamo ritmi diversi, io salgo, tu scendi. Abbiamo ritmi diversi, io salgo, tu scendi. Io mi spengo nel buio, tu invece ti. L'ultima fila Ritmi, beh, dal brano, diciamo così, da brani alternative rock, quasi easy pop, così siamo a questo brano molto contenitoriale. Mi ha colpito una frase dove dice prima era normale amare, adesso è normale amarsi male. Beh, sì, concordo. È molto triste, però frase, insomma, concordo. Dice, però l'ultima fila. Sì, nei rapporti molto superficiali è facile, insomma, amare male. Attiva dal 2016 l'ultima fila, una band romana molto intensa che, insomma, hanno avuto la loro soddisfazione, per esempio, band finalista al MEI e vincitore di Rockalling Festival nel 2017, e poi sono arrivati all'incisione, appunto, di questo nuovo album, questo singolo che ci presentano, e devo dire, insomma, che attraggono, sono molto curiosi, vero? Sì, quindi. Hanno qualcosa da dire, si sente. Ho insistito io con la redazione perché venisse proposto. Bene, mi compiaccio, anche lei a orecchio, bene. A questo punto invece abbiamo sul piatto numero 5, no, un pezzo numero 5 sul piatto numero 2, vero? Ecco, abbiamo Radio Souf, si dice così? Radio Souf, acqua minerale. Acqua minerale. Lo so io cos'è che mi fa sognare insieme. Non ho mai creduto agli analisti e ai tuttologi, moralisti e scientologi, fatalisti e futurologi, falsi storici, ai leoni da tastiera, senza una vita vera, spera, aspetta e poi si avvera, viene sera, intanto tutto cambia, il vento politico intanto cambia, il momento storico intanto cambia, il tasso alcolico, sai, sembrava acqua minerale, vita sociale, stato sociale, rabbia sociale, tensione sociale, siamo tutti alla ricerca di qualcosa di speciale. Lo so io cos'è che mi fa sognare, siamo io e te ed un'estate al mare, fermo immagine da ricordare, siamo io e te e il mondo sta a guardare. We'll be right back. voglia di annegare, così almeno avrò qualcosa poi da raccontare. Crisi esistenziale o generazionale, questo vuoto dentro non lo riempio mai. C'è troppo poco tempo e sogni che cadono, giorni che volano, mani che pagano, madri che fanno carezze coi guanti a giovani affranti, coi sogni pesanti, traguardi ingombranti. E non so cosa dirti, vorrei lavorarci, quiet quitting, gridiamo zitti con dentro un milione di cose da dirci. Lo sogno cos'è che mi fa sognare, siamo io e te ed un'estate al mare fermo immagine. Radio SUP con la loro acqua minerale. Beh, grazie a questi brani e agli aerei che sento partire un minuto dopo minuto, è veramente arrivata l'estate, Paoletti, eh? Beh, sì, sì, sono arrivati i turisti. Prettamente estivo questo proposto della radio. Sì, sì, sì, sì. Allora, Luca Laruccia, in arte Radio SUP, è un produttore, arrangiatore, compositore, un cantautore attento ai testi che sono sempre molto ricercati e vanta collaborazioni insieme ad artisti come Francesco Renga o Giusy Ferreri, oppure Aiducci addirittura, o ancora Rocco Hunt e poi Anna Mena, no, da non dimenticare. Beh, complimenti, perché insomma questa è una canzone simpatica, mi ricordava un po' anche Giorgio Poi, che cantava qualcosa sull'acqua minerale. No, c'era, sì, proprio il suo singolo che è Acqua Minerale. Sì, sì, è vero. Devo dire che sì, insomma, d'estate va molto l'acqua minerale. Con le bollicine. Sì, io preferisco perché quella un po', ecco, insomma. Leggermente naturale. Ecco, esatto. Bene, bene, bene. Velocemente andiamo con il prossimo brano. Siamo al numero 6. Penultimo brano di questa puntata numero 24 di oggi, domenica 18 giugno. Hai visto che fuori c'è il sole, parliamo il sole. Allora il titolo del pezzo è Sole, tra parentesi, la la la, Ruggero Ricci con noi. Alle spalle un altro giorno di sole, sono gli effetti collaterali di queste guerre stellari, senza più noni nel mio pettine, ci si ritrovo nel disordine, malinconia in cui tu vivere, vivere, e oggi è un giorno perfetto, tu sei la fine del mondo, mi sono autodistrutto, ricostruito. Vado alle Hawaii a riprendermi il sole, a riprendermi te, riprendere me, riprendermi, sha-la-la. Due squali bugiardi che fanno ragionamenti, ma mai provato ad affondare, o fai fatica adesso a dirmelo, che appena ti svegli, che a volte mi pensi, e ho un giorno perfetto, se fosse parte ad agosto, mi sono autodistrutto e ricostruito, sono offeso offline, ho bisogno di sole. Cerco nessuno, quando mi tira io resto a digiuno, non me ne frega niente di te, di me. Ora non voglio, non cerco nessuno, quando mi tira rimango a guardare. È già finita l'estate. Decisamente un brano estivo, anche questo propostoci da Ruggero Ricci, Sole, tra parentesi, la la la la, ma di cui adesso Paoletti ci parlerà. Sì, velocemente, Ruggero Ricci nasce a Lugo, quindi casa nostra, no? A Ravenna, Moscenti che roba, un romagnolo, un patacca, oggi ha dei commenti poco fini. Ma no, ma va bene così, insomma, io ho preso l'ultimo cioccolatino, veramente della stagione, quello. Scuse per questi commenti. L'ultimo cioccolatino con il liquore. Tempo che si contenga. Va bene. bene. Tolgo l'audio. Va bene, va bene. Allora, che c'è da dire? Che lui ha dedicato questo singolo proprio all'Emilia Romagna, quanto è accaduto con la tragedia, insomma, dell'alluvione, ovviamente. E quindi, insomma, ci teneva a dirlo, e a ribadirlo a scopo benefico. Lui l'abbiamo visto anche partecipare a un X Factor nel 2013 e poi ad Area Sanremo 2015-2016 e poi insomma ha diviso Fortunati Palchi insieme ai Jalis per esempio, ma non solo, insomma Fiorella Mannoia, Marco Masini e tanti altri, e praticamente si è dato anche alla scrittura e addirittura il MEI praticamente lo ha proposto come praticamente gli ha dato una borsa di studio per una 3 giorni formativa che si tiene appunto al MEI per quanto riguarda i trucchi del mestiere, insomma, del cantautorato e quant'altro, che non è poco. E poi addirittura ha partecipato a Una voce per San Marino e quindi insomma piano piano si sta dando da fare. E poi ha diviso il palco anche con grandi come Roy Paci, di Eiffel 65, Lorenzo Citra e Deborah Jurato, tra i tanti. Quindi, che dire, gli auguriamo il buon lavoro, la canzone c'è, questa è proprio una canzone estiva, e insomma gli auguriamo il bocca al lupo, soprattutto perché poi è anche tanto tanto generoso, e quindi insomma, che dire, l'Emilia ti abbraccia. Grazie a Ruggero Ricci. A questo adesso punto, ultimo brano sul piatto numero 2, una canzone che avevamo già proposto, Fabio Gomez con Dirty Liar, un altro brano estivo. Tell me why you tell me new lies every day. Every time you talk, your lips give it away. Tell me why you only wanna play and betray. Even making love, you keep on lying. No shame, no shame. You don't see me. Just a liar, dirty liar. You love playing away. You keep cheating like a cat in a black alleyway. You send me 10,000 selfies smiling away. You're a Judas and everyone leads you astray. You don't see me. You don't hear me. No shame, no shame. Now it's time to stop playing your game. Io vi invito a guardare, visualizzare il video, che è una storia di samurai, insomma una cosa un po' particolare, molto bello questo brano, a me piace molto, molto bello il tutto. Il brano è stato realizzato dal team di produzione artistica di Fabio Gomez, Mood 5, artista e produttore appunto svizzero, e Marco Zangirolami, che è un musicista, compositore, produttore, arrangiatore, ingegnere del suono. In più c'è Peggy Johnson, paroliere di Bolton Manchester, una band degli Stati Uniti ma della Gran Bretagna. Insomma, Dirty Liar è disponibile in questa versione che abbiamo ascoltato, ma ce ne sono altre due nella 21st Century Mix e della Infinity Extended Version, pronta per il clubbing, come si suol dire. Devo dire, lui è bravissimo, una voce potente, e che dire, che questo Dirty Liar è un invito alla lotta contro i bugiardi patologici, e ce ne sono tanti in giro. Fabio Gomez, un ben tornato a lui, un po' come dire anni 80, quel suono degli anni 2000, che dire, che è spettacolare questo singolo, un davvero. Disco vintage, velocissimo. Abbiamo anche il disco vintage, allora ascoltiamolo così. Immediatamente. Lascio aperto l'audio così lo commenta. Ci vuole dire cos'è? You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Sono i Modern Talking, giusto? Bravo Paolo. You're my soul, you're my heart, qualcosa del genere, sì. Impazziva all'epoca, impazziva, no? Nelle spiagge, impazzava nelle radioline degli anni Ottanta, uno con i capelli lunghissimi, mi ricordo, sembrava Sandy Martin, un altro invece più, insomma, più signorile, più posato. Erano i Modern Talking, ma io mi aspettavo la Carrà, insomma, lei mi fa sempre queste carambate, comunque va bene. Abbiamo iniziato a parlare di Carrà all'inizio appunto del nostro programma per gli 80 anni, avrebbe compiuto oggi 80 anni, che dire, insomma, che qui finisce la nostra avventura per oggi, spero vi siate divertiti anche oggi. Vi invito invece a cercare la nostra playlist e magari a affiancare, dopo aver preso nome e cognome, andare a cercare i video, perché di alcuni sono molto curiosi, interessanti, non ultimo come quello di Fabio Gomez con Dirty Liar, da vedere, spettacolare, ma ci sono anche altri artisti che imparerete così a conoscere, a vedere insomma le loro facce, dal momento che in Italia, non essendoci più i programmi musicali, insomma non si sa più appunto che faccia abbiano i cantanti, quindi noi non riusciamo c'è a fare YouTube, c'è Spotify, certo. iTunes, vi invito. Le piattaforme fluide, liquide come vengono definite, ma ahimè finisce qui questa puntata numero 24, Paoletti. Vi invitiamo a cercare sui nostri social, a cliccare, no, le nostre pagine, tanto assolutamente dal radio www.radiocittafugico.it, cartellina musica playlist, e trovate tutte le nostre puntate e anche quelle degli altri redattori di Radio Città Fugico. Certo, ci sono anche le nostre interviste a questi artisti, noi facciamo del nostro meglio, però insomma sono tantissimi, insomma gli impegni veramente tantissimi, noi ce la mettiamo sempre tutta. Che dire, che noi ci fermiamo qui, ma la musica prosegue su 103.100 modulazione di frequenza, insieme a chi, regia? Allora, vi lasciamo la programmazione di Radio Fugico e Denico in particolare Raucci. A Denico Raucci, le sue corrispondenze alle ore 16.30. Bene. Noi vi ringraziamo, in particolare salutiamo Marzia e Stefano di Vicenza. Sì, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi diamo appuntamento, come al solito, a domenica prossima, stessa ora, stesse frequenze, 103.10 di Radio Città Fugico. Bye bye da Franco Paoletti e dal Bolognese Volante. Cliccate. Let your body melt in mine. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fugico. お力だ鋼鉄神宮。